what we expect, the substance of this new dynamics is a transformation and change is needed based on a consistence, integrity of stability and freedom together. Il ministro degli esteri turco Ahmet Davologlu, che interviene intanto spiegando il perché della richiesta turca di una riunione della NATO in base all'articolo 4, l'articolo 4 lo ricordo, è l'articolo che sostiene che un attacco contro uno dei membri dell'alleanza è un attacco contro tutti, e questo incontro è stato convocato per domani a Bruxelles. La ragione, lo avrete visto nelle cronache, c'è stato l'abbattimento di un caccia Phantom F4 da parte delle contraeree siriane. Il ministro degli esteri turco, che abbiamo ascoltato poco fa, Davutoglu, ha ammesso che il caccia turco in effetti ha violato brevemente le acque territoriali siriane, ma solo per pochissimi istanti, certamente non in profondità, dopodiché è uscito dalle acque territoriali e ha sottolineato che quando è stato abbattuto il caccia turco era in acque internazionali e non è mai stato avvertito. La Siria contrattacca dicendo no, invece era nelle nostre acque territoriali, e soprattutto la Siria sostiene che la Turchia consente a terroristi, così vengono definiti, nell'Occidente li chiamiamo ribelli che vogliono la democrazia, consente ai terroristi di infiltrarsi al confine fra Turchia e Siria e di destabilizzare la situazione siriana. Basta? Beh, vorrei aggiungere un altro tassello, perché per dare un quadro completo alla complessità della situazione di cui dobbiamo tener conto, bisogna anche prendere atto che questo caccia turco è decollato dalla base Malatya Air Ak. Questa base ospiterà il nuovo sistema radar antimissile che dovrebbe proteggere l'Europa da possibili attacchi nucleari iraniani. E quattro paesi, Turchia, Polonia, Spagna, Romania, ospiteranno queste basi radar. È un progetto che sarà concluso nel 2018, ma è un progetto che irrita profondamente Mosca, perché Mosca sostiene che lo scudo antimissile non sarà soltanto per neutralizzare possibili attacchi da parte dell'Iran, ma potrebbe essere immediatamente ridiretto e neutralizzare i missili russi. L'equilibrio fra Russia e Stati Uniti poggia sulla deterrenza e dunque la Russia teme che ci sia una manovra molto più vasta. Allora, è casuale che i siriani abbiano abbattuto questo caccia che arrivava da questa base che ospiterà i radar antimissile? Qui entriamo nelle congetture, naturalmente non possiamo saperlo, ma è soltanto un elemento in più, non secondario, per darvi un'idea di quanto la situazione sia molto tesa e con molte sfaccettature.